Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. L'appuntamento di oggi con me, Francesco Galante, ma soprattutto con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, vede nuovamente con noi al telefono la voce di Gianluca Codognato dell'Adico. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e buongiorno ai radioascoltatori. Allora Gianluca, oggi, come dire, se avete qualche pezzo di ferro in mano, qualche cornetto da toccare, toccatelo pure. Mentre parliamo di questo argomento, lo dico sorridendo, ma voi avete lanciato una raccolta firme, una petizione di firme nella sede dell'Adico, che ricordiamo è in via Volturno 33 a Mestre, per protestare perché ci sono stati degli aumenti cimiteriali nel veneziano importanti. Partiamo quindi dagli aumenti. Sì, allora appunto, intanto gli aumenti, diciamo subito, sono scattati ancora a inizio 2015 con una decisione del commissario Vittorio Zappalorto. Venezia è stata commissariata, è rimasta commissariata, adesso ha fatto le elezioni. Il commissario è venuto un po' per aggiustare la situazione economica del bilancio disastrato e quindi ha deciso questi aumenti. Il problema è che ha deciso aumenti di vario genere, dai parcheggi ad altre cose, però insomma ha anche deciso un aumento antipatico come quello delle tariffe cimiteriali. Ecco, cioè adesso andare a chiedere i soldi ai morti è una cosa che si poteva evitare, insomma. E infatti si va a chiedere ai vivi, che puntualmente si presentano alla nostra associazione imbufaliti, perché Francesco, si ritrovano con aumenti a volte clamorosi, perché vabbè, possiamo prendere in considerazione per esempio la cremazione, che adesso coinvolge, diciamo, un nutrito numero di persone. Esatto, forse metà delle persone decedute. E qua siamo passati da 480 a 604 euro, che è un aumento importante del 25%. Però il motivo per cui le persone vengono da noi è soprattutto legato all'esumazione, che invece è passata da 50 a 335 euro, che a livello percentuale sono 570 punti di differenza. Ecco, scusami, ma devo dire assolutamente il mio caro estinto. Il caro estinto, o estinto troppo caro in questo caso. E Francesco, purtroppo, insomma, l'esumazione è anche un obbligo per le famiglie. Una volta che il corpo del proprio caro è sepolto in campo comune per 10 anni, dopo 10 anni c'è l'obbligo di esumare il corpo. Sì, o anche, ricordo anche, mi pare 30 anni se invece uno sceglie non di essere messo per terra ma su un loculo. Esatto, quindi c'è appunto questa differenziazione. Noi attualmente abbiamo accolto persone che si ritrovano appunto a dover esumare il proprio caro, stiamo parlando soprattutto di persone che hanno il proprio caro in campo comune e che hanno avuto dei preventivi veramente folli. Ricordiamo un'iscritta, insomma, che si è rivolta a noi, perché la Veritas, che è la società che si occupa di questo per il comune, l'ha fatto un preventivo da 1200 euro, perché al di là dell'esumazione poi è stato proposto ovviamente di riporre le ossa assieme ai propri cari, quindi insomma altre spese, si era arrivate a 1200 euro e la signora oggettivamente non poteva farcela. È nata forse anche da questo stimolo la nostra volontà di rivolgerci alla nuova amministrazione per vedere se si possono rivedere completamente queste tariffe folli. Ecco, oltretutto mi sembra di ricordare che questi soldi non vengono rateizzati, cioè è una botta che uno deve in qualche modo cercare di sostenere. È probabile che chi la chiede, insomma, confidi sul fatto che le persone abbiano più parenti, che possano mettere assieme le forze, ma non succede sempre così, anzi, sì. Per cui a volte una sola persona deve accollarsi una spesa di questo tipo, ma davvero ci sono persone che veramente non hanno quei soldi e quindi o rinviano o chiedono chiedere un aiuto a qualche amico, però insomma, ripeto, è una cosa antipatica, perché stiamo parlando di persone decedute, come dicevi all'inizio, per cui davvero l'abbiamo ritenuta una scelta antipatica quella del commissario, per quello abbiamo deciso insomma di muoverci in questo senso con una petizione che sta avendo veramente davvero tanto successo. Ecco, quindi voi state raccogliendo le firme per cercare di chiedere al comune di cambiare le cose. Sì, noi siamo già mossi in tal senso, nel senso che abbiamo avuto anche dei contatti con l'amministrazione, contatti indiretti. La nostra richiesta è assolutamente molto chiara, cioè quella di tornare alle tariffe pre-aumenti, pre-commissario. Sì. non sarà facile, ne siamo coscienti, perché chiaramente questi soldi tappano dei buchi di bilancio importanti, una parte ovviamente di buchi di bilancio. Noi però puntiamo ad avere veramente tante firme da presentare all'ufficio del sindaco, insomma, almeno per un ripensamento, se non la cancellazione delle tariffe, una diminuzione di questi aumenti. Sì, perché adesso non c'è più il commissario, quindi c'è il sindaco Luigi Brugnaro che dovrebbe in qualche modo rispondere lui di questo. Sì, diciamo che in parte, ripeto, indirettamente ha risposto dicendo appunto che la scelta poi è stata valutata dal commissario Zappalorto, non c'entra la nuova amministrazione, e come dire, purtroppo è così, quei soldi servono, però insomma io invito a mettere in moto un po' di fantasia e cercare magari qualche altro mezzo per tappare il buco di bilancio, perché non si possono sempre prendere i soldi dalle tasche delle povere famiglie. Ecco, cari amici del Veneziano, di Mestre, dintorni, insomma, tutti all'Adico, in via Volturno 33, dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio, quindi 9:00, 12:30, e poi 15:00, 18:30, andate a mettere la vostra firmetta per combattere con questo aumento del caro estinto, che credo sia veramente una cosa brutta, e spero che non capiti in altri comuni. Speriamo che questo almeno serva da monito agli altri sindaci a non fare cose di questo genere, perché veramente, insomma, andare a toccare anche queste cose qui mi sembra un pochettino eccessivo. Grazie quindi a Gianluca Codognato, che è stato con noi per raccontarci quest'altra vicenda dell'Adico. Ricordo www.associazionedifesaconsumatori.it, il vostro sito. Ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.